guardarsi intorno, vedere come mai, cercare tante volte e trovare solo guai, riflettere ogni tanto su ciò che fai, toccare anche il fondo e lo saprai. Ci sono tante storie vissute nel reale, semplici e diverse da come nel virtuale, avute poi son perse o gettate via, perché nel falso regna l'agonia. Succedere alle volte, se non siamo noi, immagini distorte, sembrare ciò che vuoi, leggere di un'anima sentita mai, confonderci le idee e sentirai. Strane storie perse, sentite avute mai, spengono il sapore del reale. La luce di un'idea, vedere un'altra strada, per perdersi nel vuoto un'altra volta. Ci siamo guardati attorno, capire se è normale, cercare un qualcosa che abbiamo avuto mai, fantasie ed immagini è solo quel che fai, per non essere deluso tu dovrai pensare ad una storia vissuta nel reale, non perdersi mai dietro all'ombra del virtuale. Il sogno è un'altra cosa, non è così, e non si trova dentro ad un PC. Qualcosa si può dare ed è normale, solo se tu senti chi nel virtuale rimasto solo cerca un po' di compagnia, oppure in preda all'ansia, alla follia. Ora un'altra storia, sapere se abbia andato, cercare di capire com'è stato. In musica e poesia, qualcosa di noi, rubata al nostro tempo e dal reale.